A me piace assai spiegare la Bibbia e in particolare amo molto il Primo Testamento, l'Antico Testamento, perché ritengo che sia veramente maestra di vita e anche oggi vorrei dimostrarvelo spiegandovi il libro dei Giudici, capitolo 6, versetto 33 seguenti. Che cosa succede? Succede che il popolo di Israele, come per grande parte della sua storia, era sottomesso ai dominatori stranieri e anche questa volta. E ogni tanto il Signore suscitava dei condottieri per liberarlo. Questa volta suscita Gedeone. E gli dice: Gedeone, io ti ho incaricato di liberare il tuo popolo. Ma Gedeone dice: Signore, ma c'ho nessuno che mi aiuta, ho quattro gatti, quelli là hanno un esercito tra i più potenti della zona, io non c'ho nessuno, come faccio? Senti, Signore, mi daresti una prova? E il Signore accetta. E Gedeone usa un sistema agricolo, contadino, dice: io metterò giù un vello, un mantello di pecora questa notte. Se tu per favore fai che sia inzuppato di rugiada solamente lui e intorno sia tutto asciutto, è un bel segno questo. E Dio accetta questa prova. Al mattino Gedeone strizza questo vello di pecora e viene fuori una bella tazza di rugiada. Ma Gedeone dice: scusami, Signore, non ti offendere, facciamo il contrario questa notte, facciamo che tutto in giro si inzuppa di rugiada e questo vello resta asciutto e il Signore accetta. E così succede. Allora Gedeone, convinto, intraprende la battaglia e poi è interessante vedere, è bello conoscere anche la storia di Israele, come porta a vittoria il suo popolo. Ma il punto che io vorrei sottolineare è questo: è giusto, è lecito mettere alla prova Dio? Perché nella Bibbia troviamo altri casi in cui non è stato fatto così. Quando appare l'angelo a Zaccaria e gli dice: tu avrai un figlio, e Zaccaria dice: eh già, come faccio, così che sono vecchio? E Zaccaria dice: ah sì, va bene. E l'angelo gli dice: sarai muto. Solamente quando questo si verificherà, tu riacquisterai la tua parola. Allora diciamo, come la mettiamo? Uno chiede una prova e Dio gliela concede. L'altro chiede una prova e viene punito. C'è un altro caso ancora? Sì, quello della Madonna. Cioè, tu avrai un figlio. Dice: ma com'è possibile questo? Io non conosco uomo. E l'angelo le porta una pezza giustificativa. Le dice: guarda, Elisabetta, tuo parente, è capitato anche a lei. Allora, Signore, come la mettiamo? Possiamo o non possiamo chiederti una prova? Ci punirai o ci ascolterai? Io non ero nel cuore di questi personaggi, per cui la mia interpretazione è personale, è soggettiva. Non è parola di Dio, è la mia visuale. Però io ritengo che dipende tutto dal tuo cuore. Io credo che se tu domandi al Signore con il cuore buono, una piccola spinta a crederci, è una cosa buona. Se tu invece ti pretendi che Dio ti dia una prova, Dio non lo fa. Lo paragono un po' a un bambino che va dal suo papà e dalla sua mamma. Papà e la mamma gli danno un comando che il bambino non capisce. Il bambino ha due atteggiamenti. Può andare a dire, ma perché mi hai dato questo? Ma un buon papà e una buona mamma, secondo me, non devono rispondere, non devono accettare questa provocazione, perché non è educativo. Se invece il figlio va dal papà e dalla mamma e dice, scusa papà, scusa mamma, voi mi avete dato quest'ordine, io non riesco a capirlo, mi dite il perché? Papà e la mamma glielo spiegano. Capite che è diverso? Che questo ci serva come esempio anche per la nostra vita. Se c'è qualcosa, un dolore, una scelta difficile, un qualche cosa che noi non riusciamo a capire, è giusto andare alla presenza di Dio e dire scusa Signore, io sono un po' indietro di comprendonio, mi aiuti a capire per favore perché mi hai dato questa croce, perché mi chiedi questa fatica. Ma se noi andiamo davanti a Dio gridando io sono arrabbiato con te, non è giusto, mi devi spiegare perché, Dio non ci risponderà mai, e fa bene, perché è un buon educatore.